Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Temporale a Palermo, forse nessuna vittima nei sottopassi allagati, dice il sindaco Orlando. Intanto la procura apre un'inchiesta. Coronavirus stop agli arrivi da Serbia, Kosovo e Montenegro. Speranza, l'epidemia è ancora dura nel mondo, serve prudenza. Al via il voto di fiducia al Senato sul decreto rilancio, 55 miliardi di aiuti alle attività economiche. Sanremo 2021 ancora affidato ad Amadeus in compagnia di Fiorello, la conferma all'annuncio dei palinsesti Rai. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Andiamo subito a Palermo, dove la procura sta valutando l'apertura di una indagine dopo, come sapete, la violenta alluvione di ieri che ha messo in ginocchio la città. Decine di auto sono rimaste travolte dall'acqua, intrappolate nei sottopassaggi dei cavalcavia. Oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco. Giallo ancora sulla presunta scomparsa di due persone travolte dalla furia dell'acqua. A segnalarle un camionista, ma poco fa il sindaco di Palermo ha rassicurato e ha detto: al momento non risultano vittime, anche se la questione non è del tutto risolta. Allora andiamo in Sicilia. Il violento nubifragio che ha colpito Palermo ieri pomeriggio non ha provocato alcuna vittima. La conferma arriva dalla Protezione Civile regionale alla luce dei risultati del lavoro di ricerca dei corpi che è andato avanti tutta la notte e ancora stamattina. Si è rivelata senza fondamento, per fortuna, la segnalazione di un camionista che aveva detto di aver visto una coppia finire sott'acqua in uno dei sottopassi della circonvallazione di Palermo. Intanto la Procura di Palermo sta valutando di aprire un'indagine sull'accaduto per accertare eventuali responsabilità nell'assenza di misure necessarie a prevenire e fronteggiare l'emergenza meteo. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, finito sotto accusa, ha incontrato i giornalisti a Palazzo delle Aquile e ha annunciato che presenterà alla Procura di Palermo e alla Procura della Corte dei Conti una dettagliata relazione su quelle che lui ritiene siano le responsabilità. Il sindaco accusa la Regione Siciliana per il mancato finanziamento di opere ritenute necessarie e utili in questi casi, seppur eccezionali, come il collettore fognario. Avevamo fatto un progetto che non è mai stato finanziato, ha detto Orlando. In Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Un fenomeno in aumento, quello dei nubifragi temporali estivi particolarmente intensi o bombe d'acqua, come a volte anche vengono chiamati, un fenomeno che sembra collegato ai cambiamenti climatici. Che cosa si può fare per arginare questa situazione? Sentiamo. 135 mm di acqua caduti in poche ore, il dato del nubifragio di Palermo strettamente collegato al riscaldamento globale. Bisogna predisporre programmi di mitigazione del rischio, ripensare le città, spiega Antonio De Santis, ingegnere idraulico che lavora a Palermo per la società di geologia ambientale. La rete di drenaggio di Palermo, dove per rete di drenaggio intendiamo la fognatura urbana, la rete di acque bianche che in alcune zone non esiste a Palermo come tantissime altre città, deve essere pensata in relazione a questi eventi. Nell'attesa vanno messi in essere sistemi di allerta, spiega Michele Orifici, geologo siciliano, vicepresidente nazionale di SIGEA. La proposta immediata da fare è quella là di installare all'interno di ogni sottopasso dei cosiddetti idrometri. Il danno è esteso a tutta la regione, con campagne letteralmente sommerse dall'acqua. Le già devastate strade interne impediscono di raggiungere le aziende agricole, denuncia Coldiretti, che continua. Dall'inizio dell'anno ad oggi, lungo tutta la penisola, si sono verificati 66 nubifragi, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci spostiamo a Roma con l'attività del Parlamento, perché è ripresa la discussione sul decreto rilancio al Senato, sul provvedimento che vale 55 miliardi con misure a sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza Covid, già approvato dalla Camera ed è in scadenza sabato. Il Governo ha posto la questione di fiducia. È atteso nel primo pomeriggio a Palazzo Madama il risultato del voto di fiducia sul decreto rilancio. Per il governo non dovrebbero esserci sorprese sul provvedimento che stanzia altri 55 miliardi di euro di aiuti a famiglie e imprese per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus sulla nostra economia. La maggioranza difende le misure messe in campo. Il democratico Manca risponde così alle critiche del centrodestra. Mentre voi fate la propaganda sulla flat tax, noi abbiamo introdotto misure utili a sostenere la liquidità anche a fondo perduto delle imprese. Le opposizioni protestano invece per la compressione dei tempi per l'esame del provvedimento a Palazzo Madama. Il leghista Romeo invita anche la maggioranza a ringraziare il centrodestra, senza i cui voti non sarebbe stato approvato lo scostamento di bilancio che ha permesso di finanziare il decreto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la pagina economica, perché l'attività dell'economia è iniziata a riprendersi da livelli molto bassi, ma l'incertezza resta alta. Così scrive il Fondo Monetario Internazionale nel documento preparato in vista del G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali che si terrà virtualmente il 18 di luglio. Al G20 il fondo chiede sforzi collettivi, sono essenziali per mettere fine alla crisi finanziaria e rilanciare la crescita, e proprio domani ricordiamo che inizia anche il Consiglio europeo sul Recovery Fund. Flop in Italia per il campionamento nazionale tramite test sierologici che si è concluso ieri. Possiamo dire che è un flop perché meno della metà dei 150.000 italiani che dovevano essere testati lo sono stati effettivamente. Il commissario Arcuri invece ha annunciato altri test, quelli per il personale scolastico, a partire dal 10 di agosto. Saranno disponibili dal 10 agosto i test sierologici destinati ad oltre 2 milioni di lavoratori del comparto scuola, ad annunciarlo il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Test che, lo ricordiamo, saranno comunque volontari e per gli studenti effettuati a campione. È fondamentale che i nostri figli possano tornare a scuola, se posso è ancora più importante e giusto che lo facciano in sicurezza. E intanto, sempre sul fronte dei test sierologici, è deludente il bilancio delle indagini di sieroprevalenza organizzata sul territorio nazionale dal Ministero della Salute in collaborazione con Istat e Croce Rossa. Costata 4,5 milioni di euro, partita il 25 maggio, si è conclusa ieri a causa della data di scadenza impressa sui reagenti. All'appello ha risposto solo la metà dei 150.000 cittadini selezionati dal campione. L'obiettivo era raggiungerne l'80%, maglia nera Bolzano, l'Emilia Romagna e alcune regioni del sud. In testa Basilicata, Marche, Valle d'Aosta. I risultati ufficiali tra 10 giorni, ma non tutto è perduto. Secondo gli esperti, nonostante sia al di sotto delle aspettative, il risultato potrà comunque dare indicazioni utili per individuare la percentuale di quanti hanno sviluppato gli anticorpi, anche in assenza di sintomi, e stimare l'estensione dell'infezione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Per quanto riguarda invece un altro capitolo di quella che doveva essere la fase 2 e poi la fase 3, parliamo della app Immuni. Ieri a fare un primo bilancio è stata la ministra per l'innovazione Paola Pisano. Siamo arrivati, ha detto, a 4 milioni di download per essere l'Italia. È un ottimo risultato, così la ministra Pisano, che ha aggiunto piano piano prendere a piede, i download sono in continua progressione. E in progressione purtroppo però sono anche i nuovi casi di coronavirus, in particolare negli Stati Uniti. In 24 ore oltre 67.000, circa 3 milioni e mezzo il totale solo negli Stati Uniti. Sentiamo. I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale, e quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti superano la soglia delle 137.000 vittime, mentre i nuovi contagi sono stati 67.632. Ancora difficile la situazione in America Latina. Nelle ultime 24 ore i contagiati hanno raggiunto quota 3.526.310, di cui 150.802 morti. E il presidente Bolsonaro, contagiato, ha avuto la conferma di positività ad un secondo test. In Russia superati i 750.000 casi accertati. Livello di allerta massimo a Tokyo, dove si registra un altro record giornaliero, 286 casi in 24 ore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mercato dell'auto ancora in calo a giugno secondo i dati dell'ACEA, l'associazione costruttori europei. Le auto immatricolate sono state in calo del 24%. Intanto prende forma il nuovo gruppo nato dall'alleanza tra Fiat Chrysler e Peugeot, a partire dal nome scelto. Si chiamerà Stellantis e in una lettera il presidente di FCA, John Elkann, e l'amministratore delegato Mike Manley ai dipendenti del gruppo nel mondo spiegano perché è stato scelto questo nome per la nuova società che nascerà quando la fusione tra FCA e PSA sarà completata, cosa che ci aspettiamo avvenga nel primo trimestre del 2021, dopo l'approvazione da parte degli azionisti nelle rispettive assemblee straordinarie. Il nome, scrivono, deriva dal verbo latino stello, che significa essere illuminato di stelle, e trae ispirazione da questo nuovo ambizioso allineamento di marchi automobilistici leggendari e di forti culture aziendali. Unendosi, daranno vita a uno dei nuovi leader nella prossima era della mobilità sostenibile. Rimarranno invariati i nomi loghi preesistenti dei singoli marchi costitutivi del gruppo, mentre Stellantis verrà utilizzato esclusivamente a livello di gruppo come corporate brand. E intanto è ancora in calo a due cifre il mercato europeo dell'auto, anche per il gruppo FCA. A giugno in Europa occidentale, secondo i dati della CEA, l'associazione dei costruttori europei, immatricolazioni giù del 24,1% e nei primi sei mesi del 2020 calo a quota 39,5% rispetto agli stessi periodi del 2019. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona garbata ma anche grande intrattenitore che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità. Così il direttore di Rai 1, Stefano Colletta, poco fa ha appunto dato la conferma sul Sanremo 2021 alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai. Sport calcio, stasera con Torino, Genoa e Spal Inter si completa il quadro della 33esima giornata di Serie A. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Ripartiremo tra poco dopo il break dalle novità che arrivano per quanto riguarda le misure di contenimento del coronavirus dall'Alto Adige, dove si annuncia un via libera sul fronte della mascherina. Niente mascherina in sostanza per baristi e camerieri. Chissà se questo, diciamo, sarà l'anteprima di quello che succederà anche sul resto del territorio nazionale. E poi ve lo anticipo, parleremo anche del nuovo libro di Camilleri, un libro postumo, l'ultimo della saga di Montalbano, con tante sorprese per gli appassionati. 349-238-6666, a tra poco. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Effetto Giorno. Notizie di oggi: temporale a Palermo, la conferma della protezione civile, nessuna vittima, la procura però apre una inchiesta. Coronavirus stoppa gli arrivi da Serbia, Kosovo e Montenegro, epidemia dura, serve prudenza, dice Speranza. In Alto Adige da oggi niente mascherina per baristi e camerieri, obbligo invece di scaricare Immuni per entrare in discoteca. Esce in libreria Riccardino, l'ultimo libro postumo di Camilleri della saga di Montalbano. Le 13:15, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati. È con noi Arno Compace, il presidente della provincia autonoma di Bolzano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, novità in arrivo dalle vostre parti che riguardano le misure restrittive per il contenimento del coronavirus. In particolare, la questione della mascherina segna un punto sottolineare, perché cade forse quello che può essere considerato anche l'ultimo obbligo, l'ultimo obbligo di tenere la mascherina, perché parliamo del personale di bar e ristoranti. C'è una novità anche che riguarda la app Immuni, dovrà scaricarla chi vuole entrare in discoteca, se abbiamo capito bene, con Patcher. Però partiamo dalle mascherine. Se ne è parlato tanto in queste ultime settimane sull'utilità, la necessità nei luoghi chiusi. Voi eravate partiti già a giugno facendo decadere l'obbligo sostanzialmente all'aria aperta, ma anche nei luoghi pubblici se si riesce a rispettare il metro di distanza. Adesso che cosa cambia? Beh, innanzitutto devo dire che esiste addirittura tuttora l'obbligo di portare le mascherine anche all'aperto se si arriva a una distanza inferiore a un metro. Cioè, noi eravamo sempre abbastanza cauti, e anche adesso non è che i camerieri non debbano più portare nessuna protezione di naso e bocca, abbiamo soltanto stabilito che non deve essere necessariamente una mascherina chirurgica, rimane l'obbligo per tutti di usare una protezione delle vie respiratorie, può essere anche una mascherina di stoffa lavabile per esempio, perché per quanto riguarda la protezione attiva della clientela, perché sappiamo che la mascherina chirurgica, anche quella comunque protezione passiva non dà, gli stessi effetti, e perciò cambia pochissimo, cioè solo che accanto all'uso della mascherina chirurgica si può usare anche si possono usare mascherine di altro tipo, tutto lì. Allora però i titoli di chi ha scritto stop alle mascherine per il personale dei bar e ristoranti è completamente sbagliato? Esatto, è sbagliato, perché rimane ovviamente, noi vogliamo proteggere ovviamente sia chi lavora in questi esercizi pubblici, ma anche e soprattutto la clientela. Ecco, ma mi sembra un chiarimento importante, perché effettivamente sarebbe sembrato anche un disincentivo forte, credo, per chi deve frequentare bar e ristoranti. Avermi dato l'opportunità di chiarire questa cosa, perché era una notizia sbagliata. Ecco. E tra l'altro devo dire, non è la prima volta che capita con Pace, sarà un problema di lingua, sarà un problema di incomprensione con i media. Comunque è importante chiarirlo, perché ripeto, per bar e ristoranti in questa fase dove sappiamo ci sono difficoltà a riprendere i livelli di attività precedenti, ecco, diciamo, un senso di protezione diffuso da parte degli operatori credo che sia gradito a chi ci entra. Per quanto riguarda invece la questione delle discoteche, c'era l'ordinanza, il DPCM che prevedeva la riapertura il 14, in realtà poi le discoteche al chiuso non potranno riaprire a livello nazionale, sono riaperte ovunque quelle all'aperto. Voi introducete questo, se ho capito bene, con Patcher, obbligo di scaricare la app Immuni per chi vuol andare a danzare, è così? Sì, noi abbiamo confermato la data del 15 luglio, in nostro caso, per la riapertura, però con regole molto severe. Da un lato il rapporto clienti superfici 1 a 10, cioè possono entrarci pochi per avere proprio gli spazi per mantenere le distanze, l'obbligo permanente di portare la protezione di naso e bocca, cioè non si può togliere, non si può levare in nessun momento quando si trova in una discoteca, ma anche l'obbligo in questo caso di scaricare l'app. Cioè noi diciamo, chi vuole in questo periodo entrare in discoteca, che faccia questa cosa qua per garantire la rintracciabilità, perché se ahimè succedesse qualcosa, almeno avere la possibilità di rintracciare tutte le persone e di avere poi anche il monitoraggio che possa garantire che non nascano nuovi focolai. Questo è quello che abbiamo visto. Subito la protesta ovviamente, ma allora non è volontaria? Ma invece rimane volontaria. Allora se non voglio scaricarla in questo periodo, in questa rinuncio, devo rinunciare alla discoteca. Alla discoteca. Chi vuole andare in discoteca in questo caso deve collaborare in questo senso per garantire la sicurezza. Allora, ieri la ministra Pisano ha detto che siamo arrivati a 4 milioni di download per quanto riguarda la app Immuni. Devo dire che l'idea di fare una pressione sui giovani da questo punto di vista, che sono accusati spesso e volentieri di eccessiva disinvoltura nel rispetto delle norme anti-Covid, mi sembra una strada ragionevole. Personalmente sto dicendo, per quel che conta il mio punto di vista, ricordo soltanto che tutto, per quanto riguarda tutte le tematiche di privacy, di paure degli ascoltatori e di tutti quelli che non l'hanno fin qua scaricata, forse per queste paure, le codice di programmazione di questa app, ce l'ha insegnato il nostro collega Enrico Pagliarini esperto di queste tematiche, è completamente aperto e trasparente. Quindi se ci fossero dei tranelli, dei sotterfugi, delle cose, qualunque informatico, qualunque operatore del settore potrebbe rendersene conto. Evidentemente, come è stato detto, questa è un'app costruita bene. Non teme Compaccer, le chiedo quest'ultima cosa velocemente, però ricorsi, appelli su questa questione che diceva lei della obbligatorietà? Ma io spero che non ci siano, ci difenderemo, però io posso confermare quello che dite. Addirittura i blogger più critici, no? Che di solito sono sempre critici nei confronti anche, diciamo, della pubblica amministrazione che raccoglie dati, confermano che qui non c'è alcun rischio. Anzi, chi usa uno smartphone dà dati a colossi internazionali privati, diciamo, dà quasi tutto di sé, invece qui lo Stato garantisce che invece non è interessato ai dati. Perciò io faccio l'appello davvero a tutti di usare questa app, perché ci darà per il futuro anche la garanzia per tenere sotto controllo la situazione. Grazie Compaccer. Grazie a voi. Io ce l'ho qua la app scaricata, così posso andare anche a ballare. E va bene. Filippo Origi in regia dice va bene, chi se ne frega. Cioè era così un messaggio, no? Un messaggio privato in radio pubblica. 13:22 minuti, apriamo una finestra su un altro argomento molto delicato, è la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, perché ci sono delle novità, ce le racconta Daniele Biacchessi. Mai come in queste ultime ore il nome dell'ultimo latitante della vecchia guardia di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ha ripreso a circolare negli ambienti investigativi giudiziari. Il boss trapanese è vivo e ancora attivo, come confermano numerose tracce lasciate da uomini e donne della sua rete protettiva che gli consentono una latitanza di ben 27 anni. La lunga catena dei cosiddetti pizzini di Messina Denaro è giunta fino a poche settimane fa. L'ultima traccia è stata recapitata agli eredi del boss di Partan, Alfonso Passanante. Messina Denaro chiedeva la loro rinuncia ad un vasto appezzamento di terreno nella ricca contrada di Zagara di Castelvetrano. Ma gli affari di Messina Denaro sono ben più sostanziosi di pur grandi parti del territorio siciliano. Affari sporchi, ancora pericolosi, dicono i cacciatori di latitanti. I postini che lavorano per l'ultimo capo dei capi sono ancora diversi e a portare i pizzini sono anche quei soggetti in passato arrestati, condannati e che una volta liberi si sono rimessi a disposizione della potente cosca trapanese. Gente come Francesco Domingo, arrestato insieme ad altri 12 solo un mese fa. Nei fatti Messina Denaro resta il garante di quei patti indicibili siglati dai vertici di Cosa Nostra con parti infedeli degli apparati dello Stato. Negli anni della strategia della tensione che ha insanguinato il paese, la sua cattura resta l'ultima frontiera della lotta contro la mafia. 13:24 minuti, è con noi Alessandra Tedesco, collega di Radio 24, conduttrice del Cacciatore di Libri. Ciao Alessandra. Ciao a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Allora, esce oggi questa importante uscita, Riccardino, il libro postumo del grande maestro Camilleri, l'ultimo della saga di Montalbano. Credo che sia proprio l'ultimo, giusto? Sì, è decisamente l'ultimo per volere proprio di Camilleri, sì, che l'aveva iniziato a scrivere nel 2004, poi l'aveva consegnato ad Elvira Selberri nel 2005, poi ci aveva rimesso mano nel 2016 con l'espressa, diciamo, clausola che fosse pubblicato postumo. Ecco, esatto, perché non è un libro postumo come accade in altre circostanze dove magari la casa editrice o i familiari di autori che ci hanno lavorato con l'autore poi, diciamo, estrapolano o qualcosa del genere. Qua si tratta di un libro che Camilleri aveva proprio scritto, e però con in un formato, se abbiamo capito bene, un po' diverso, no, dal solito, Alessandra. Allora, in realtà oggi sono usciti due romanzi. È uscito Riccardino nella versione appunto rivista e corretta da Camilleri nel 2016, quindi nella versione finale, che sì, è corretta solo per quanto riguarda la lingua, il vigatese, perché la trama è identica. E poi esce in contemporanea un Riccardino, diciamo, versione deluxe, perché c'è sia la versione che aveva scritto nel 2005 sia la versione corretta nel 2016. Quindi per gli appassionati soprattutto della lingua di Camilleri possono prendere questa versione particolare per metterle a confronto. Il romanzo è un po', naturalmente ha un caso da risolvere, Montalbano questo deve vedersela mancare, come un caso, certo. Eh beh, ovviamente la vittima si scopre a pagina 9, perché questo giovane direttore di banca, appunto Riccardino, sì, viene ucciso, bisogna scoprire il mistero, ma in realtà questo è un romanzo veramente pirandelliano, nel quale Camilleri si è divertito proprio a dialogare con i suoi personaggi, non solo il Montalbano dei romanzi, ma anche il Montalbano televisivo. Prende anche quasi in giro, sì. A un certo punto c'è un dialogo bellissimo in cui l'autore, perché Camilleri entra nel romanzo come l'autore, sì, telefona al Montalbano personaggio del romanzo e gli dice: senti, questa storia di Riccardino io la sto scrivendo mentre tu la stai vivendo. E allora il Montalbano personaggio del romanzo gli risponde: quindi io sarei il pupo e tu il puparo? Molto, c'è un problema forse con la linea, con Alessandra Tedesco, molto, già si capisce come sia molto gustoso per gli appassionati di Camilleri, di Montalbano, ma non solo, per tutti i potenziali lettori. Vediamo se recuperiamo Alessandra Tedesco, magari al telefono, per chiudere l'intervista. Insomma, avete capito, ci sono due edizioni, tra l'altro, Deluxe e edizione base di Riccardino, edito da Sellerio, Andrea Camilleri, l'ultimo della saga di Montalbano, che poi avrà, e questa sarebbe stata la prossima domanda per Alessandra Tedesco, ma naturalmente non c'è tempo, ma lo sappiamo già, avrà anche lui una sua trasposizione televisiva, in realtà, perché la Rai sta lavorando agli ultimi episodi, tra cui ci sarà anche questo. Alessandra, ti abbiamo recuperato? Sì, al telefono forse? Al telefono, mi spiace, è caduta la linea. Il nostro collegamento, non so dove, fino a dove avete ascoltato. Non importa, abbiamo sentito, è un romanzo da non perdere. Abbiamo sentito quasi tutto, credo. L'ultima cosa che ti avrei chiesto riguardava, appunto, lo stavi citando anche tu un po', la questione della trasposizione televisiva, perché credo che la Rai stia andando avanti con gli episodi, forse arriveranno anche, non so se c'è già un annuncio ufficiale, anche a Riccardino, sotto Zingaretti, sotto regia di Zingaretti però. Non ho capito, scusami. Sotto regia di Zingaretti però. Probabilmente sì, sotto regia di Zingaretti, insomma, questo è da vedere. Va bene, grazie, buona giornata anche a te, Alessandra Tedesco. Vi ricordo Riccardino nelle librerie, l'ultimo libro di Andrea Camilleri. 13:28 minuti, noi ci fermiamo qua, facciamo la pausa, poi torniamo con le informazioni di borsa, i titoli, ancora altre storie, parleremo dell'ennesima tegola per quanto riguarda la gestione dei rifiuti a Roma. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Temporale a Palermo, la conferma della protezione civile, nessuna vittima, la procura apre un'inchiesta. Coronavirus stoppa gli arrivi da Serbia, Kosovo e Montenegro, epidemia dura, serve prudenza, dice Speranza. Al via il voto di fiducia al Senato sul decreto rilancio, 55 miliardi di aiuti alle attività economiche. Roma, nuova tegola sulla gestione dei rifiuti, sotto sequestro il TMB di Rocca Cencia, con noi tra poco l'ex assessore Montanari. Rai, Sanremo 2001, ancora affidato ad Amadeus e Fiorello. 13:35 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666, ce ne sono molti sull'intervista con Compacer della provincia autonoma di Bolzano, soprattutto sulla app Immuni. Si potrebbe dire, scaricata la app, trovato l'inganno, perché giustamente alcuni di voi scrivono: chi controlla che poi la app sia attivata in discoteca? Oppure se la disinstalla una volta uscito dalla discoteca, che succede? Non lo rintracciano più. Un altro ascoltatore. Poi ancora, invece, la questione: avete verificato quanti smartphone sono in grado di scaricare la app Immuni? Effettivamente molti non possono farlo per la questione dei sistemi operativi, che nei telefoni un po' più vecchi non sarebbero adeguati, e questo non so se è stata risolta questa questione effettivamente. C'è un altro ascoltatore che chiede lumi invece sul campionamento nazionale test di siero prevalenza, e dice: ma sembra singolare che i responsabili dell'indagine, cioè sostanzialmente il governo, alla sua conclusione non abbiano annunciato una seria analisi per evidenziare le cause del suo fallimento. Dopotutto si tratta di soldi pubblici, scrive Michele. Soldi pubblici non tanti, Michele, perché i test erano stati donati dall'americana Abbott, che poi li ha venduti sul mercato italiano sotto altra forma. Però ha ragione, non è stato spiegato perché questo test, questa campionatura nazionale è fallita. Ci si aspettava molto da sapere quanto era diffuso il virus in Italia. E invece non sappiamo ancora forse nulla. Vedremo se arriveranno comunicazioni ufficiali nelle prossime ore. Alberto Orioli adesso. Il punto di Alberto Orioli. Mentre la solita politica delle baruffe chiozzotte si confronta in modo infantile sul chi ha vinto e chi ha perso, la partita di Autostrade va ancora tutta scritta. Ciò che conta saranno i testi con cui verrà scritto il piano in due fasi per la quotazione di Aspi. Prima la diluizione della partecipazione di Atlantia nel capitale di Aspi che controlla e gestisce le autostrade, poi la quotazione di Aspi con una ulteriore cessione della quota dell'11% ancora in capo ai Benetton. Innanzitutto sarà importante conoscere quale diventerà il valore indicato per la società. Poi sarà altrettanto importante capire quale diventerà il rapporto tra le tariffe ribassate e gli investimenti da realizzare per migliorare e mantenere la rete. E per capire quale diventerà il margine di remunerazione per gli azionisti, e sarà certamente più basso di quello di cui hanno beneficiato i Benetton e gli altri soci fino adesso. Sarà anche importante comprendere se cambierà il regime delle concessioni, come chiede da tempo l'Authority per la regolamentazione dei trasporti, e se cambierà anche il sistema dei controlli, che palesemente ha fallito. Ci troveremo di fronte all'anomala situazione in cui lo Stato, che concede la gestione di una infrastruttura sostanzialmente a se stesso, dovrà ridurre al minimo la possibilità di guadagno e dovrà anche fare la faccia feroce mentre si guarda allo specchio. Così la vicenda Autostrade. Adesso invece, come annunciato, vogliamo fare il punto su Roma per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. C'è una nuova tegola che rischia di mandare davvero al collasso la capitale da questo punto di vista, perché l'ultimo impianto del comune in funzione, il TMB di Rocca Cencia, ha subito uno stop da parte della magistratura, un sequestro per via di un supposto malfunzionamento. Ne parliamo con Pinuccia Montanari, ex assessore all'ambiente della città di Roma, Roma Capitale, benvenuta. Salve a tutti. Buongiorno. Allora, buongiorno. Giunta Raggi, ricordiamo, ex assessore all'ambiente della Giunta Raggi, ma non ricordiamo adesso, diciamo, i motivi poi delle sue dimissioni. C'è stato un piano suo e di Bagnacani dell'AMA non sostanzialmente approvato dalla Giunta Raggi, ma io vorrei parlare di questo impianto TMB, perché secondo l'inchiesta, secondo quello che sappiamo, secondo i magistrati, praticamente questo impianto che dovrebbe separare nell'indifferenziato la parte secca dalla parte umida non riusciva a seccare ulteriormente la parte umida abbastanza, e sostanzialmente in discarica, poi dove veniva trasferita in discarica questi rifiuti, arrivavano in condizioni non ottimali, sostanzialmente erano maleodoranti e a rischio marcire. Questo impianto, che impianto è, Montanari? Faceva parte tra l'altro del suo piano anche un po', no, di gestione dei rifiuti a Roma? Ma guardi, no, il nostro modello, che poi era un modello di piano industriale, sì, che tra l'altro era stato sottoposto anche allo stress test dei tre principali operatori mondiali della finanza, quindi che lo avevano ritenuto concreto, credibile, a tal punto che era stata data ad AMA addirittura la disponibilità di un'emissione obbligazionaria fondamentale per sostenere gli investimenti nell'impiantistica, sì, appunto, proprio sotto la cappella di AMA, prevedeva un superamento di questo tipo di impianti, perché questi impianti erano, diciamo, facevano parte di una concessione, diciamo, abbastanza vecchia, per cui sono il superamento era previsto anche, sì, nei nostri 13 impianti che erano, sì, stati indicati nel piano industriale come superamento verso le fabbriche dei materiali o addirittura, diciamo, soprattutto su un modello impiantistico che era basato sul massimo impegno per il recupero di materia, sì, questo è il concetto fondamentale, e naturalmente anche riutilizzo dei materiali. Ecco, quindi si trattava di un impianto vecchio su cui comunque il presidente Bagnacani aveva svolto delle attività importanti di ottimizzazione e anche di manutenzione. Anche perché in quel momento era necessario, no, Montanari? Perché essendo l'unico ancora al momento, perché ricordiamo che di impianti nuovi non ne sono poi stati realizzati. Abbiamo presentato due progetti, di, sì, cui un progetto, cioè quello di Cesane Casalsecchi, è stato autorizzato e adesso teoricamente in 6 mesi, visto che la regione è stata rapidissima nell'autorizzarlo, potrebbero realizzarlo, questo che è già stato autorizzato. Questo è importante. Noi abbiamo presentato due all'epoca in cui c'ero io, insomma, comunque, sì, è chiaro che, sì, era stata AMA. aveva presentato già i progetti definitivi per la realizzazione di due impianti, di cui uno è stato già autorizzato e quello in 6 mesi si potrebbe realizzare. Chiaro. E senta, Montanari, naturalmente del materiale. Però più complessivamente, a che punto è oggi il piano di raccolta porta a porta e il livello anche di raccolta differenziata del Comune di Roma? Ricordiamo che Roma ha sposato la strategia zero rifiuti, lei è arrivata anche con questo senso, insomma, con questa idea. L'Italia ha molte eccellenze dal punto di vista della raccolta differenziata, del porta a porta, e Roma aveva detto sposiamo questa strategia. Oggi che bilancio si può fare? Oggi in questo momento il nostro piano, che era stato anche approvato dalla sindaca, è sostanzialmente fermo. Noi avevamo realizzato su 300.000 abitanti le prime trasformazioni del progetto appunto di raccolta porta a porta, che avevano portato degli esiti molto positivi, perché avevamo una media di raccolta differenziata, oltre a scoprire le famose utenze fantasma, 52.000 utenze fantasma, quindi anche una razionalizzazione nel sistema di organizzazione della gestione e della raccolta dei rifiuti, avevamo ottenuto dei risultati che naturalmente consideravamo potessero, se estesa a tutti i municipi, dare un risultato finale, in modo che avevamo da un lato il progetto di riduzione, dall'altro la raccolta differenziata estesa a tutti i municipi, poi naturalmente questi grandi investimenti, dicevo, su impianti, su cui c'erano già anche delle bozze di accordo con società, ad esempio per 60.000 materiali, tessili sanitari, c'era già stato un accordo con la società Fater per realizzare un impianto, con Cormatex, Ama, Enea, per sottrarre tutti quei materiali che oggi vanno purtroppo nei TMB. Ecco, e poi rispetto anche al TMB appunto di Rocca Cenza, proprio prima di andare via il presidente Bagnacani, oltre a fare questi interventi di miglioramento, aveva fatto anche un audit importante, la cui relazione era stata consegnata qualche tempo prima, che aveva uno schema anche molto, tra l'altro realizzata da una delle società diciamo più importanti di gestione aziendale a livello nazionale, che indicava appunto i rilievi, le osservazioni, la rilevanza di queste problematiche e criticità, e soprattutto i suggerimenti. Va bene, io però devo chiudere purtroppo. La ringrazio, Pinuccia Montanari, grazie per essere stata con noi, ex assessore all'ambiente di Roma Capitale. Insomma, era... La vicenda è ampia e complessa, naturalmente. Tra l'altro ricordiamo che in questi giorni sta per entrare in attuazione il recepimento italiano della direttiva europea sul pacchetto dell'economia circolare, che cambierà ancora un po' le carte in tavola, aumenta il volume dei rifiuti urbani e quindi, insomma, bisognerà creare dei nuovi impianti assolutamente, perché, come vedete, la situazione rischia di sfuggire di mano. Ah, però adesso ci rilassiamo velocissimamente pensando al pomeriggio sportivo. Carlo Genta, Alessio, al volo, che succede? No, guarda, più al volo di così, una sola domanda che rivolgo anche agli ascoltatori, che potranno intervenire: riuscirà la Juventus a perdere questo scudetto? Secondo me no, però dopo il pareggio 3-3 ieri, che tu ieri avevi vaticinato in qualche modo, non mi ricordo, ma non indovino un pronostico dal 73, quindi è molto difficile. Avevi detto che era una partita effettivamente complicata. Non semplice, era complicata, però insomma un punto nelle ultime 3 partite, 9 gol subiti nelle ultime 3 partite, tanti blackout, e la domanda è questa, proveremo a parlarci sopra. Grazie Carlo, appuntamento con Carlo Genta e compagni, tutti convocati dopo il GR delle 14. Noi facciamo un piccolo break come al solito e poi torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.